Europa 24. Buongiorno, un saluto da Gigi Donelli. Dunque, la settimana europea che si apre decisamente su quelle che il periodo, le due settimane delle audizioni dei commissari europei designati dal nuovo esecutivo comunitario, quello naturalmente guidato da Jean-Claude Juncker, esecutivo che entrerà in funzione il 1 novembre, e quindi si conclude quel lungo periodo che abbiamo di fatto aperto a giugno con il voto europeo. Ecco, tra gli ascoltati, tra gli interrogati dei prossimi giorni per quanto riguarda l'Italia, naturalmente Federica Mogherini, il ministro degli esteri, designato come alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. L'appuntamento per lei è comunque lunedì prossimo, il 6 ottobre, di fronte ovviamente alla Commissione Esteri. Le prime audizioni invece, che sono davvero iniziate da poco, sono quelle del commissario designato all'ambiente, affari marittimi e pesca, il maltese Kermenuvella, e quella della commissaria designata al commercio internazionale, la svedese Cecilia Malmström, liberale, già responsabile uscente del portafoglio degli affari interni dell'immigrazione. Di con la Malmström spesso ci è capitato in questi anni appunto di parlare dei temi dell'immigrazione. La Malmström è svedese e è stata appunto al centro degli eventi anche drammatici che hanno segnato gli eventi dell'immigrazione in questi anni. Intanto, dicevamo, prime due audizioni nella prima parte del pomeriggio. Nella seconda, a partire dalle 18, si svolgeranno invece altre due audizioni. Ci sarà il commissario designato alla cooperazione internazionale e allo sviluppo, il croato Neven Nimica, socialista, che passerà il suo esame, diciamo, davanti alla commissione sviluppo, mentre il commissario uscente all'energia, il tedesco Günther Oettinger, un'altra vecchia conoscenza, è designato all'economia digitale. Dico una vecchia conoscenza perché Oettinger è responsabile uscente della Commissione Energia, insomma un ministero, diciamo, anche se in termini di Commissione Europea non si può parlare così. Dunque una commissione molto delicata alla guida di una serie di temi chiave. Ecco, l'audizione più a rischio di giornata dovrebbe essere proprio quella del maltese Vella, non solo perché ha poca esperienza il maltese con le politiche ambientali che dovrebbe gestire, ma anche per le perplessità che ha suscitato negli eurodeputati della Commissione Ambiente la scelta di Juncker di indebolire ulteriormente il portafogli dell'ambiente proprio, privandolo delle competenze sui rifiuti alimentari, sui prodotti biocidi che sono stati trasferiti ai servizi per l'industria. Insomma, questo è un po' il quadro, che è anche il quadro della settimana. Intanto vi segnalo che la Commissione Europea questa mattina ha aperto e avviato un dossier nei confronti della Apple, accusando il colosso americano di aver ricevuto aiuti di Stato in violazione alle norme comunitarie sugli accordi con l'Irlanda, sul fisco, negli ultimi 20 anni. Oggi ne parla approfonditamente il Financial Times. Gli interessati non smentiscono. Un tema, come possiamo dire, anche questo per certi versi classici, quello il rapporto tra le grandi imprese e i governi che le ospitano e che a volte fanno favori, anzi spesso fanno favori di natura fiscale proprio per avere le centrali di queste grandi compagnie, spesso non europee. Ci sono dei limiti, si vedrà appunto se nel caso Apple le abbia rispettate oppure no. Questo è quanto per l'appuntamento di oggi. Noi naturalmente torniamo questa sera in Europa 24 notte, parleremo invece della questione Rom, un tema sempre molto scottante all'interno Rom europei, Rom di nazionalità europea, quindi cittadini dell'Unione Europea. Ne parleremo alle 21.30 e poi noi torniamo invece domani poco dopo le 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.